se yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Siamo alla continua ricerca di immagini simboliche che ci rappresentino. Ahimè, è molto difficile trovare punti di riferimento alti, eccelsi, qualcosa che sia scritto in lettere di fuoco sulla porta dei cieli che ci rappresenti. Quindi molto più modestamente cerchiamo icone cinematografiche del mondo dello spettacolo, piccoli uomini come noi che hanno avuto comunque celebrità e visibilità perché il cinema, la televisione, il mondo della rappresentazione si è accorto di loro. Noi ci siamo spesse volte interrogati su quanto ci rappresenti Alberto Sordi. Un grande, eccelso attore, uomo di commedia, uomo di spettacolo, importantissima icona rappresentativa dell'italiano medio dagli anni del boom economico fino a pochi anni fa, quando lui è scomparso. Negli ultimi anni ha poco rappresentato l'evoluzione dell'italiano, ma rimangono ben fisse nella nostra memoria, comunque sono punti comuni che ci rappresentano comunque, che fanno comunque parte di noi. Ci sono state alcune evoluzioni, alcune diramazioni degli italiani medi raccontati da Sordi, ma comunque resta rappresentativo. Oggi però vorrei confondervi ancora di più le idee. Siamo un po' più sicuri che sia stato il più alto rappresentante della medianità italiana Alberto Sordi, o ce ne sia magari stato anche un altro, probabilmente altrettanto famoso, altrettanto eccelso, altrettanto celebrato dal cinema e dalla commedia italiana, ma forse non così in primo piano quanto lo è nell'immaginario comune il personaggio di Alberto Sordi. Non lo puoi immaginare cosa vuol dire diventare padre. Non ci dormi la notte, sai. E lo so. È una cosa meravigliosa. E tu non ti vuoi sposare. Dai, dai. Fesso, sai. Io non sono mica fortunato come te, sai. Cosa credi? Tu sei stato veramente fortunato a trovare una donna come Regina. Ma poi i bambini, capisci? Non puoi capire cosa significa aspettare un bambino. Io lo credo. Ma cosa fai? Mi mangi la mano? Senti un po', ma non è un po' piccolo qua, eh? No. Oh, io sto benone, guarda. Mi hanno messo il televisore, pure il telefono. Che cavolo mi serve poi? Io non lo so. Poi sono un chilometro da tutti, bello, tranquillo. Questo è Ugo Tognazzi, nella prima opera italiana di Marco Ferreri del 63, Una storia moderna, L'ape regina, film che poi suggellerà un sodalizio fra il regista e fra l'attore, Ugo Tognazzi. Ugo Tognazzi anche lui ha rappresentato una galleria di personaggi, di tipi di italiani, ma secondo noi, quello che questa mattina io e Giuseppe Sanzonna, che è in studio con me, Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Cercheremo di raccontare o porlo come nostra tesi, ha avuto secondo noi un passo in più rispetto a Alberto Sordi. Alberto Sordi era facile, era immediato, era impossibile non sorridere, non avere una carnale, immediata partecipazione rispetto a tutto quanto di scellerato, di gaglioffo, di cialtrone lui rappresentava, che noi stesso riconoscevamo nella nostra vita, nella nostra essenza, pur rinnegandolo. Alberto Sordi ci ha permesso di sdoganare la nostra cialtronaggine, portandola al livello eccelso di opera d'arte, quindi tutti noi facciamo parte di un'opera d'arte, che l'opera d'arte della cialtronaggine nazionale, di quella cialtronaggine nazionale, di quell'infingardaggine, di quella vigliaccheria, di quella pochezza, ma di quella enorme capacità di recupero tipica di noi. Ma Tognazzi è leggermente più complesso. In questo film, Giuseppe Sanzonna, L'ape regina, un film che fu lungamente sotto l'occhio della censura, perché un film che toccava degli aspetti molto più articolati, molto più complessi rispetto alla crassa evidenza della cialtroneria sordesca. Questo era un signore che aveva una quarantina d'anni, trova una donna bellissima, gliela porta un frate, quindi ragazza illibata, di ottima famiglia, decide di accasarsi, di mettere su famiglia con lei, e appena sposata questa si rivela una satanata terrificante, una belva affamata di sesso, se lo spolpa tranquillamente. Perché? Perché vuole essere ingravidata, voleva un figlio. Una volta ottenuto il suo scopo, riabbassa le saracinesche e lui di questo uscirà tragicamente segnato. Sì, qui Tognazzi fa la parte del Fuco, la parigina e la splendida Marina Vladì, ed è il primo incontro fra Tognazzi e il mondo di Ferreri. Tognazzi era l'unico dei colonnelli della commedia italiana che veniva dal mondo nordico, quindi un mondo particolare, un mondo da un certo punto di vista produttivo, calvinista, meno cialtronesco di quello romano, capitolino di Sordi, quindi completamente diverso, però ci mette il suo incontro nel 63 con Ferreri, lo trasporta nel mondo del Buñuel italiano, quindi in una sfumatura di paradossi neri, questa cupa ironia ferreriana, lo trasforma in una parabola molto cupa, lui diventa un fuco che viene praticamente poi svuotato di ogni linfa vitale dalla Vladì e quindi ucciso da lei, e muore in questo sgabuzzino dopo averle dato un figlio, cioè serviva solo alla procreazione, c'è già questa l'amara ironia profetica di Ferreri. Questo fu il segno della censura che colpì questo film, in sì. realtà andava a toccare territori molto molto minati. Soprattutto una scena, c'era questa vestaglia della Vladì che dice non lo fo per piacere mio ma per dare un figlio a Dio, scritto in bel corsivetto sulla vestaglia della Vladì. Questo colpì la censura, e poi c'era la colonna sonora che sembrava un rintocco d'ossa, questo finale in cui Tognazzi muore nello sgabuzzino e c'erano questi cori da chiesa, no? Che accompagnano il decesso del playboy, del quarantenne playboy Tognazzi che incarnerà in tanti film. Sì, il senso secondo me era quello di una redenzione, di una catarsi necessaria, la benedizione del frati, dalla brava ragazza, e la scoperta in realtà di un lato scuro, di un lato nascosto, della sensualità e della concupiscenza, del senso del peccato nascosto dietro una liceità data appunto dalla necessità di procreare. È un percorso molto tortuoso, è una bella ellissi da percorrere, quindi è piuttosto difficile decifrare. Ma tu ti sei fatto un'idea delle differenze dell'italiano medio raccontato da Sordi e da Tognazzi? Intanto io do il numero 800240024. Insomma, questa mattina siamo manichei. Siete tognazziani o sordisti? Siete convinti che l'italiano medio sia raccontato in maniera più efficace dalla palese e solare rappresentazione di Sordi? Siamo circondati da tanti Alberto Sordi, ma in realtà i Tognazzi sono più difficili da individuare, e Tognazzi può essere il nostro vicino di casa, Tognazzi può essere il nostro collega d'ufficio, Tognazzi può essere l'integerrimo signore con cui abbiamo quotidiani rapporti lavoro, Tognazzi possiamo essere anche noi, molte volte mascherati, nascosti dalla nostra pretestuosità, dal nostro bagaglio culturale, dal nostro status. Quanto c'è di Tognazzi in noi? Tognazzi ha dato l'idea dell'uomo organico, dell'umanità come tubo digerente, come diceva Céline, cioè sempre questo rapporto ossessivo con la cucina, sempre legatissima al sesso, questo cibo che diventa per lui guarnizioni, come nella cucina di Elle raccontata da Barthes in Miti d'oggi. Questa, poi nella grande buffata, come sentiremo, c'è questa guarnizione borghese del dettaglio che copre l'organico del cibo. E lui inoltre c'è la figura tipica del dopoguerra, dell'industriale appunto del nord che sta costruendo l'Italia da un certo punto di vista, ma che denota già un'avidità, una marcescenza che poi molto profetica. Quindi un senso barocco di compiacimento dell'infrollimento della carne. La carnalità per Tognazzi era qualcosa di radicale, di connaturato, di... Mi viene in mente Casotto di Citti, quando lui va con una specie di cintura di castità, si fa tenta le sorelle Melato, ma in realtà poi quando viene denudato nel casotto in riva al mare da queste due signore che sono pronte a pagare il prezzo carnale del suo ricatto, ha una specie di mutanda di cuoio coi lucchetti, quindi dimostra questo senso di censura rispetto al suo desiderio. Dio, come siamo deboli, con questa voce nasale, la sua voce nasale che arrota, che ammorbidisce, che è melliflua e sorniona come il suo volto, disdice il suo stesso personaggio, c'è cioè questa sorta di straniamento interno, no? E comunque avvolge e mostra questa sua tentativo di cilicio, ma che in realtà poi è disdetto dalla sua erotomania, insomma, c'è cioè questo sempre. Ha già fatto anche l'erotomania. Mentre per Sordi, in fondo, la carnalità era soltanto maniera, era uno zitellone che ha vissuto la vita solo con le sorelle, in fondo, non ha mai avuto reali storie o trasporti almeno palesi, un verginone solitario, non si capiva bene cosa fosse. In realtà, Tognazzi era molto chiaro e molto esplicito. Leonardo, buongiorno, iniziamo. Buongiorno, eccomi qua. Aspetti che spengo la radio, va. Bravo, sì, allora, faccia con calma. Mi identifico più in Tognazzi perché è l'uomo che rappresenta, è l'attore che rappresenta tutti i difetti scusabili dell'uomo, che nella gioventù più o meno abbiamo manifestato tutti, e che andando avanti negli anni piano piano si dissolvono. Ma fino a un certo punto, guarda, io ho in mente due episodi tognazzeschi. La sua fine nella grande abbuffata, in una sorta di trionfo marcescente di cibo, di rigurgito, di sesso e via dicendo, e la fine del Conte Mascetti in Amici miei, che fa la supercazzola anche quando muore. Quindi c'è un non rassegnarsi mai, c'è un'eclissi che in realtà non vede mai il punto di compiaciuto o rassegnato quiete. Sei d'accordo, Sansone? Sì, sì, c'è una compulsività sadiana, e dietro l'eccesso di cibo, l'eccesso culinario, dietro l'eccesso di sesso c'è lo spettro della morte sempre che aleggia fra il grottesco, molto sadiano in questo, sì. Sordida, vera maschera, in realtà non conosce la morte, perché è già morto, perché non è un essere umano, è una maschera. Sì. C'è sempre uno scherzo, sempre un farci uno sberleffo. Tognazzi invece è attraversato da questa sorta, sì, di senso della disfatta, della fine, della morte, della luce. Risi lo diceva su Sordi, cioè, ho sempre paura di vedere di togliere la maschera a Sordi per vedere l'altra maschera che c'è sotto. Ne ho sempre paura, diceva Risi di Sordi. Paolo, buongiorno. Pronto? Paolo, eccomi, Paolo. Buongiorno. Io sostengo questo, che di fatto poi queste enormi differenze tra questi due personaggi non vi sono. Indubbiamente sono due mondi. Sordi ha una maschera plautina sua, proprio personale, per cui era una persona che faceva ridere solamente a guardarla. Indubbiamente Tognazzi no. Però Sordi ad esempio ha avuto un'evoluzione, specialmente negli ultimi film, si parla, non so, del borghese piccolo piccolo. Di cui non parla nessuno, però si rende conto, l'abbiamo tirato fuori noi come se fosse una reliquia scomparsa, un film dimenticato, proprio perché la sua evoluzione non gli era permessa, lui continuare a fare l'Alberto Sordi che ci meritiamo tutti, per dirla alla Moretti. Però se vogliamo anche in Amore mi aiutami ha avuto una maschera triste, molti forse non l'hanno percepita perché pensavano alla questione delle corna, punto e basta, però la maschera triste c'era e c'è stata, specialmente alla fine del film, era una maschera tristissima. Beh, lo sa qual era la disperazione? Quella, l'disperazione che l'intellettuale, senza nessun merito, senza nessuna passione, senza nessun desiderio, senza nessuna ascesi necessaria per mantenersi una donna, Sordi fa di tutto, la prende a cazzotti, la segue, la perdona, esatto, l'ammazzerebbe perché la ama. L'altro non fa nulla, è un intellettuale, solo per il fatto di esistere, era tipico di quei tempi, se la porta via, lei ne è rapita, proprio perché lui non la ama. Esatto, esatto, esatto. Però voglio dire, secondo me Sordi aveva grandi potenzialità anche nella commedia drammatica. Probabilmente era così di cassetta il Sordi conosciuto come Guitto d'avant spettacolo, per cui non è mai stato interpretato nell'altra maniera. Certamente Tognazzi è più aulico, almeno io l'ho percepito con dei ruoli sicuramente più drammatizzati. Abbiamo detto, però... c'è una maggiore complessità. Per comprenderlo bisogna comprenderlo con maggior complessità. In Sordi è facile che tutti si identifichino. Identificarsi in Tognazzi occorre fare i conti con un retroterra che non è detto che tutto il mondo abbia necessariamente. Siamo classisti in questo, ma qualche volta è necessario esserlo. Sai cosa di bello la sua fidanzata? La sua fidanzata, la sua amica. La coscia solida. E la vita stretta, però col lombo massiccio. Complimenti. Non dico, si è offeso? No. Non me l'ho perso di vedere. Si figuri. No, dico alberghetto. No, non se la vorrà mica sposare, vero? Beh, una mezza idea ce l'avevo. Ascolti me, alberghetti. Non si sposi. Mai mettere la donna sul piano sentimentale. Sempre sul piano orizzontale, come me. Forse la chiave di tutto è proprio nella voglia matta. È una tristezza infinita. È un senso di disfacimento, un... contemptus mundi, un disprezzo del mondo dato dal fatto ci si rende conto che questo mondo non ci apparterrà in eterno. Dimmi della voglia matta, Sansone. La voglia matta è uno dei primi incontri con un cinema diverso da parte di Tognazzi. Mi piacerebbe tornare brevemente sulla complessità del personaggio di Tognazzi, che passa dalla Repubblica Sociale in gioventù ad essere il presunto capo delle BR per il male nel 78, che passa dal palcoscenico della Ma Spettacolo con Wanda Osiris, appunto alla coppia con Vianello, molto comica, molto leggera, a questi film con Salce che invece raccontano molto l'Italia. Qui in questo film Tognazzi ha 39 anni ed è un commendatore con la sua Spider è considerato un uomo maturo, un commendatore. Oggi sarebbe un ragazzino. Oggi sarebbe un ragazzino. E io mi sono spaventato. Era già un uomo sul viale del tramonto, 39 sì, anni. Sì, si guardava allo specchio con le sue rughe, con la sua fatica di vivere, cerca di... Oggi vivrebbe in casa con i genitori. Esatto, questa era strepitosa, questo cortocircuito. E cerca di concupire questi antenati di Izzo e Ghira, perché sono giovanotti del Circeo, bene ma molto male sotterraneamente, in cui c'è Catherine Spack che spicca nella sua bellezza, e lui cerca di concupirla, ma poi rimane frustrato, finisce solo e sperduto. Quindi questa impossibilità di trattenere la vita, questa voglia di concupirla, e questo essere già segnati a 40 anni perché si è fatta la guerra, perché si sta costruendo l'Italia facendo i commendatori, con un fondo di avidità e di squallore. Sì, è terrificante che a 39 anni veda la Spack, ragazzina maliziosa, con già tutto il suo corredo di malizie necessarie, ma lui la vede già come una psicopompa, come qualcuna che l'accompagnerà verso l'ultima dimora. Sì, sì, esatto, come una psicopompa che però si sottrae al suo dovere nel finale, appunto, invece non lo accompagna. È triste la complicità che cercano i ragazzini, che in realtà... non dico sono coetanei, ma non c'erano molte differenze generazionali, forse molto in quell'epoca. Oggi fra un 39enne e un 20enne non è che ci siano abissi, alla fine più o meno hanno ancora le stesse aspirazioni, condividono la stessa vita, entrambi ancora probabilmente sono fidanzati e non sposati, entrambi ancora pensano che sia tutto da iniziare. Allora erano già degli abissi, era come un nonno con dei nipotini, quella dà dei consigli banalissimi da camionista, le donne solo orizzontali, cose che andando anche contro stesso, che lui è un sentimentale, lui era innamorato di questa ragazzina, non è che se la voleva fare, era profondamente innamorato, una sorta dopo che di von Eschenbach con un tazio femmina. Nel finale lui è straziato quando vede questa testa bionda, pensa che Francesca, pensa che sia la Spack, quindi mostra tutta la sua il suo lirismo, insomma. E c'è una, mi suggerisce Fabrizio Intonti, una perla lessicale persa, e lo chiama il Matusa. Il Matusa era chi non aveva 18 anni coi capelli lunghi, era Matusa, un termine terrificante. Sì, hanno questo slang appunto molto tipico di quegli anni, da gente dei Parioli. Chiudiamo con Mauro, poi passiamo la linea. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno. Beh, io amo la follia in Tognazzi polimorfo, potrei parlare per ore di Tognazzi, dei film. Due piccole veloci immagini, la definizione del personaggio giudice Bonifazzi, di cui avete parlato la settimana scorsa, mirabilmente sintetizzata nella sua ordinazione al ristorante. Il nome del popolo italiano era, mi sembra. Il nome del popolo italiano, certo. Cappellini al burro, un pezzettino di parmigiano, due alici, due in numero se non c'è l'aglio. Cioè, secondo me è la massima sintesi perfetta, precisa, cristallizzata del personaggio. Integerrimo, che dimostra una sua castità gastrointestinale, fra l'altro. Esatto, cioè proprio c'è una sintesi e una definizione totale cristallina del personaggio attraverso il cibo. E poi c'è un altro episodio a cui io sono affezionatissimo, che è la nobile arte, che sicuramente Sanson ricorderai anche tu e Gianluca. E cioè il finale ultra lirico, suggestivo, che secondo me è uno dei momenti più alti del cinema italiano, in cui praticamente Tognazzi fa volare l'aquilone, c'è Gassman distrutto dai pugni del pugile giovane. Sì. Secondo me quello lì è un momento di cinema bellissimo. E... no, pensavo tu dicevi la nobile arte alludessi al petomane. Melog 2.0. Mangia, mangia, mangia, mangia pure le brioche. Mi vedrai. Piace la brioche nel latte. Sì, è proprio quello che ti ci vuole per il tuo diabete. Perché metti le fettine d'uovo? Perché le uova, secondo i giudei, sono il simbolo della morte. Potrei diventare miliardario in un mese, preparando questo piatto per gli altri. Ma invece gli altri non sapranno mai quello che perdono. Invece noi e i nostri amici alziamo il bicchiere. E voilà! 800240024, ci stiamo contrapponendo tra due figure basilari rappresentative dell'italiano medio, Sordi e Tognazzi. Abbiamo appena sentito, visto che è stato lungamente evocato, un passaggio della Grand Bouffe, del film più surreale, più più bugnueliano probabilmente di Tognazzi, una sorta di suicidio premeditato, centellinato, piacevolmente realizzato da una serie di amici che vogliono celebrare questo trionfo del consumismo, uccidendosi, mangiando e facendo l'amore. Poi l'unica donna è una meravigliosa grassona che si dispensa a tutti, ma è qualcosa anche lei, come una sorta di deità di passaggio, di figura simbolica. Giuseppe Sanson. Sì, questa è l'allegoria tetra di Ferreri, della grande buffata. E la cosa particolare è che in questo film ci sono Philippe Noiret, Michel Piccoli, Mastroianni e Tognazzi. Ognuno si chiama col suo nome. Uno, Tognazzi è il divo popolare italiano, Noiret è il divo popolare francese, Piccoli e Mastroianni i divi internazionali, rispettivamente francese e italiano. Tutti convergono a rappresentare qualcosa di metafisico, di questa borghesia che infarcisce le arterie con questi dettagli di questa cucina elaboratissima. Cioè Tognazzi che interpreta se stesso, costruisce questa Cappella Sistina di patè, di cioccolato, che sarà quella letale, si lascia masturbare poi dalla Ferreole e accompagnare alla fine in questo. C'è la borghesia che usa le sue stesse prerogative per autodistruggersi, c'è una sorta di profezia cupa, molto giusta, molto esatta. C'è sempre questo tetro barocchismo però in Tognazzi, questo, se vogliamo sintetizzarlo, lo diceva Valerio Rocchetti che sta alla console, dice: ma sai perché? Perché Tognazzi è triste, Sordi fa allegria, anche quando è triste, anche nei momenti patetici, è talmente patetico ci fa ridere, è il clown preso a calci dall'altro, dal suo collega, che sì, anche se martoriato ci fa ridere. Tognazzi ci fa pensare alla morte, che non è una cosa molto allegra. Sordi prestava un po' il fianco all'equivoco, Tognazzi non... In tutti non, i sensi, certo. Tognazzi non è c'è questo tono dolente anche che ha in questo caso, questa riunione sadiana in questa villa di Parigi in cui si riuniscono, c'è questo tono dolente, cupo, carico di presagi funesti, insomma non c'è equivoco. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo fare un'osservazione su tutte queste cose che avete detto, sui due attori, soprattutto sui due personaggi, che i due aspetti del, diciamo, dell'italiano medio che, secondo quello che avete detto, i due attori hanno impersonato. Qual è secondo lei mi la è differenza? Sembrato, l'osservazione è questa, sì. Mi è sembrato che sia mancato un po' in tutto questo discorso un cenno ai registi. Perché l'abbiamo tutti citati, non facciamo altro che parlando citati. Di Ferreri, no, della cupa ironia di Ferreri. Nel senso che è chiaro, sì, sono diversi, ma erano diversi proprio i contesti, i testi dei film, e poi i registi hanno saputo sceglierli. E poi anche valorizzarli e trasformarli nei vari casi. Quindi Sansonna, non è solo... Sì, sì, non la interrompo, Anna Maria. Faccio una cosa a Sansonna, poi replica. Una cosa brevissima. Tognazzi appunto incontra Ferreri. Ferreri allora era poco famoso, aveva fatto un film in Spagna, era un veterinario che aveva fatto un ottimo film bugnoliano in Spagna. Si incontrano, Tognazzi intuisce la grandezza di Ferreri quando Ferreri non era nessuno. Ferreri ovviamente ha creato una cornice meravigliosa intorno, genialmente intorno, è stato un felice incontro, la vita del cinema e arte di questi incontri, così come con Salce e con Risi e con tutti gli altri registi. Ferreri sicuramente è quello più corposo e interessante dei registi incontrati da Tognazzi. Sì, quello che poi ci interessava, Anna Maria, era concentrare la nostra attenzione sul personaggio. È come parlare di una persona e vedere i nonni, gli zii, i nipoti, l'educazione, via dicendo. È una cosa viscerale e di pelle quello che vi chiedo questa mattina. Quanto sentite rappresentato l'italiano nella sua complessità da Tognazzo, nella sua linearità da Sordi, nel suo aspetto cialtrone naturalmente, per esempio l'aspetto drammaticamente non all'altezza della situazione. Lei come la pensa in questo? No, sono d'accordo su questo, ma mi pareva proprio che mancasse questo... Vabbè, l'ha detto allora Anna Maria. Scusi, non è che la voglio fermare, ma insiste col maestrinismo. Volevo qualcosa di suo, lei non vuol tirarlo fuori, pazienza. Stefano. Stefano, sei suicidato. Augusto. Buongiorno, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io trovo, così in breve, che Sordi mi ha sempre dato l'immagine dell'uomo in qualche modo padrone del suo destino, cioè mosso da un egocentrismo per la serie io so io e voi non siete un cavolo. Marchese del Grillo, famoso. Invece, Tognazzi l'ho sempre visto un po' in balia degli eventi, cioè in qualche modo ad arrabattarsi, penso al Federale, ad esempio, oppure ad altri film, quel film che fece Sansonna può essere d'aiuto, con la Muti, in cui lui è un vecchio dell'avanti spettacolo che trova questa ragazzina, cerca di portare... Primo amore di Risi. ma poi non ce la fa, insomma, l'ho sempre visto come una maschera ancora più tragica di quella di Sordi. Non a caso, se non sbaglio, Villaggio, per il personaggio di Fantozzi, pensò subito a Tognazzi, che poi rifiutò, ma già lo vedeva impiegato, disperato, in mezzo a una realtà terribile. E poi aggiungo anche una cosa, così, che non c'entra nulla, insomma non c'entra nulla con quello che ho appena detto. Tognazzi, secondo me, era il rappresentante massimo di un genere cinematografico che forse meglio di tutti rappresentava l'Italia, cioè il grottesco, che è un genere che nessuno tocca più. Il grottesco, appunto, la carnalità, la flatulenza, però elevate ad arte, non certo come nei... Lei ha ragione, lo sa, perché guarda, Tognazzi ha avuto un grande coraggio. Tognazzi ha fatto il gay, non la checca, infatti, ma il gay nel Vizzetto due volte, che è una figura molto pericolosa e rischiosa, interpretarla in maniera così realistica. E poi il petomane. Io guardi, una volta solo mi capitò, in tanti anni faccio la radio, di essere duramente ripreso, e ne do ragione a chi l'ha fatto, quando fece una trasmissione sugli effluvi corporei, che è la cosa più fastidiosa, più ributtante, più tabuizzata nella nostra civilizzazione. E lui ha fatto il petomane, Pujol, questo artista della flatulenza, che la porta, va nei più grandi teatri francesi, e viene marchiato a fuoco da chi odiava il fatto che lui avesse sdoganato il fatto che un uomo emette anche rumori e flatulenze. Sanzona. Sì, torniamo al discorso dell'attore organico che mostra l'umanità come tutto digerente. Tornando a prima, a quel discorso su Fantozzi, effettivamente Tognazzi mostra la fatica anche di vivere, l'affanno, il sudore, l'inadeguatezza a certi contesti rispetto a Sordi, che ha quel cinismo capitolino più fermo, meno precario. Questo, il grottesco di Ferreri, in effetti lo ha esaltato in questa sfumatura. Non avrete per caso preso la camera singola, vero? Proprio così, è stato un pensiero del suo papà, di tuo zio. Ci ha voluto fare questo regalino alla sua tusa, poverina. È il quarto figlio in 4 anni, come i conigli. Bene, allora parliamo pacatamente, perché non c'è niente di drammatico, niente di irreparabile. Tu lo sai, vero Erminia, che binario di vita noi conduciamo? Lo sappiamo, a scartamento ridotto. Vero, diciamolo pure, viviamo francescanamente, con uno stipendio che io stesso mi sono fissato, che ci permette di vivere con l'indispensabile e che rappresenta soprattutto un esempio. Sì, di cretineria congenita. Questo pastrano ha 8 anni. Ho un paio di scarpe per l'inverno e un paio di sandali per l'estate. Unico lusso, questa scatola di mentale, una alla settimana. Le altre volte sei sempre stata in una camera quadriletto. Sei forse stata male, ti è mancato qualche cosa. No, questo trovo che sia uno dei film in cui in maniera più sublime viene rappresentata la cifra dell'ipocrisia nazionale. Sentite, ho soltanto 2 paia di scarpe, un paio di sandali, una vita castissima. Questo grande moralizzatore, questo censore, colui che aveva in mano chiave di tagliare i pezzi di immaginario collettivo che lui giudicava osceni, era l'uomo della censura. Si accorge a un certo punto che la bellissima moglie ebbe un peccatuccio di gioventù, fece alcune scene, alcune sequenze del film La schiava nubiana, in cui si mostrava ignuda, no? Quei sorti di film peplum degli anni 70. Tutta la sua vita la passerà, la sua vita, la sua attenzione a togliere tutti i fotogrammi possibili in cui c'era la moglie nuda in questo film, addirittura va a comprarlo nei paesi arabi, così. Alla fine rimangono soltanto alcune foto di questo film, alcune foto di scena. Va a cercare il fotografo, gira in una città di provincia e viene beccato alla ricerca di questo fotografo in una divertentissima festa gay in cui venivano divisi in pistilli e corolle. Una retata alla polizia lo becca abbracciato a 2 efebi vestiti da angioletti, quindi si sputtanerà la vita. Quando fa questi personaggi moralisti, questi personaggi squallidi, anche minoritari, Tognazzi li irride internamente con questo arrotamento della voce nasale, no? C'è questa irrisione interna, quasi brechtiana, geniale, che lui fa, perché lui nella vita era altro e lo mette in altri personaggi, però qui si irride internamente. Sentiamo Manuele, buongiorno. Buongiorno, sì, io volevo spendere 2 parole in favore di Alberto Sordi. Perché secondo me lui non ha mai recitato in ruoli drammatici, perché non glieli facciano fare. E per recitare in un ruolo difficile, drammatico, si è dovuto dirigere da solo, in un film tra l'altro molto impegnato e di denuncia, quale è Finché c'è guerra c'è speranza, un film del 74 che purtroppo è passato un po', diciamo, in sordina, pochi lo conoscono. Non era male, però, sì. Diciamo che lui ha stravaccato in Nestore e Ultima Corsa, questi film che sono meglio dimenticarli. Sì, quello degli anni 90, però io lo associo più in quel film lì perché tra l'altro è stato lui regista il suo ruolo è di un trafficante d'armi, quindi è un film difficile, diciamo impegnativo e coraggioso il ruolo che ha. Ha guardi, lui il cinismo non è che gli mancasse. Nel film della fine del mondo famoso fa il commerciante di bambini, va a prendere i bambini alle famiglie italiane povere del dopoguerra e li porta in adozione in America. Realmente esisteva questa sorta di traffico dei bambini delle famiglie povere del meridione italiano, quindi più cinico di così è difficile. Sì, sì, Sordi è la maschera appunto feroce, sicuramente, poi anche Detenuto in attesa di giudizio invece un altro ruolo drammatico, Il borghese piccolo piccolo, cioè di sfumature, cioè no. Tognazzi era appunto nel mondo del grottesco ferreriano, più malleabile. Melog 2.0. Signorine, ieri mi sono levato la curiosità di prendere note, di controllare tutte quelle di voi che sono uscite dalla classe. Sedute, state sedute. Sette di voi hanno, non ridete, sette di voi hanno ottenuto il permesso di uscire di classe. Particolare curioso. Queste sette hanno consegnato i compiti migliori. Ora non voglio pensare che abbiate approfittato di questa uscita per consultare i testi. Ad ogni modo questo rafforza ancora di più la mia decisione di ieri. Perciò, se qualcuno di voi dovesse avere un bisogno, si può accomodare qui. Non ridete! Contegno, siamo in un'aula. Proprio per riprendere il senso di quello che stavamo dicendo, Controsesso, un film dove Tognazzi è un integerrimo professore di provincia, mi sembra che sia girato a Spoleto, qualcosa del genere, ho rivisto Strade Umbre in questo film qua, afflitto, deliziato da un suo profondo feticismo. Ci sono due nonne che lo accudiscono, due zie che gli fanno il pedicure, un'altra lo lava, due vecchie terrificanti che però lo curano come un bambolino, e lui aveva questo incessante bisogno di avere sensazioni dalle sue allievi, quindi era detestabile in quanto professore, aveva un suo mandato. Arriva per soddisfare i suoi meandri mentali a comprare un antico sedile di comodo, cioè un gabinetto di legno ottocentesco, e installarlo dentro un armadio in classe, con la scusa che le allieve, che poi sembra che abbiano 40 anni, sono ragazze di ginnasio, sembrano signore di 40 anni, quelli erano i tempi, e le mette a far la pipì quando devono uscire durante il compito in classe dentro l'armadio, e viene deliziato dall'immaginazione di quello che accade dietro. Quindi immagina che complessità di struttura che ci sia dietro, fra l'integerio, un professore di provincia, e il suo vizio privato, che va nel suo studiolo, si mette una calza in testa, ascolta le marce militari, c'ha tutta una sua complessità di stimoli indecifrabili. Sì, sì, tutta l'allegoria ferreriana, fra macismo appunto delle marce militari e questo feticismo delle calze velate. Sembra Andreotti giovane, Tognazzi, qui, cioè i capelli tutti ravviati all'indietro, un po' sudaticcio, questa montatura forte degli occhiali democristiana, queste lenti spesse, e ascolta questi effluvi, questi rumori, e si eccita con questo. Cioè, quindi c'è tutta una serie di dita messe sulle piaghe di allora, molto interessante, molto profetica, molto curiosa. Sempre schifose, scivolose, difficili da raccontare. Quindi ci sono questa stratificazione di livello che è così raffinata e così turba così tanto nella sua scurrilità non popolare, che è difficile, di difficile comprensione. Non era banale come commedia italiana, qui si innestavano, si prefiguravano scenari, si coglievano essenze. Non era "ando vai che la banana non ce l'hai", è chiaro, è qualcosa che va un po' oltre. Stefano, buongiorno. Pronto? Eccomi Stefano. Pronto? Sì. Volevo dire certe cose sono rimasto molto in mente sul fatto degli amici miei, che tutta quanta, anche la cosa tragica, la giravano allegramente, come quello che muore di infarto. Mi sente? Sì, certo. Muore di infarto e prima di morire comincia pure lui a prendere in giro il prete, quando dice di quelle battute scappellate, insomma quelle cose lì, e poi dopo quando fanno il funerale, la supercazzola, sì. Quel primo amici miei, non so se si ricorda. Sì, sì, in quel caso però lui recitava dentro la barra, era già morto, era sì. Forse il precedente, la parte migliore, ma vorrei fare un passo avanti perché c'è poco tempo, farvi ascoltare ancora qualcos'altro di Tognazzi su cui riflettere. No. Che ha fatto ora? E quello sarebbe il modo di camminare, secondo te? Perché no? Ma se stasera cammini così, siamo fregati. Come devo fare? Vieni qua, vieni. Non strillarmi, eh? Prova a camminare alla John Way. Ah, da duro. Bravo. Sì. John Way scende da cavallo, si avvia verso il saloon, apre la porta e zacca. Ecco il vizietto, Sansonna. La gaiezza di maniera oggi è una delle cifre più corrose dall'abuso che se ne fa in televisione, dal macchiettismo, dal protagonismo comunque dei fatti di cronaca. Ma qui, devo dire, fu sublime la parte che fece Tognazzi, perché era il maschio innamorato invece della sua grande soubrette, che era la femmina. Sì, e qui vanno spese due parole sulla bellezza melodiosa e musicale della voce di Tognazzi, che è capace appunto di farsi musica anche in questi... musica con questo fondo di ironia, di sottesa ironia, che è splendido e che si presta perfettamente a questo personaggio di Molina Rowe, fatto con, in coppia con lo strepitoso Michel Serrault, quindi una coppia strepitosa fra loro due, insomma. Domenico, buongiorno. Buongiorno, felice di essere con voi. Allora, dovendo scegliere tra i due, sicuramente io mi sento più legato, direi quasi vincolato a Ugo Tognazzi. Cioè la parte oscura della nostra cialtroneria, diciamolo chiaramente. Beh, no, più che altro perché lo trovo un personaggio molto capace di sfaccettature molto più complesse rispetto ad Alberto Sordi, e poi credo che abbiano operato in contesti diversi, nel senso che Alberto Sordi è stato un grande interprete dell'Italia del boom economico, quindi la sua capacità di saper sfottere, di saper ustionare certi comportamenti che iniziavano a delinearsi in quegli anni. Tognazzi invece, pur venendo dall'avanspettacolo, pur essendosi connotato con una certa, tra virgolette, leggerezza, col passare del tempo poi è stato anche capace di interpretare personaggi quasi granghignoleschi, direi un po'. Le immagini soltanto negli anni 70, non so quanti anni abbia lei, se ha vissuto quegli anni 42. Ancora forse un po' giovane, il clima si respirava ai tempi del golpe borghese. Beh, lui fu il vero, unico e coraggioso interprete del colonnello italiano che voleva fare il golpe. Sansone. E qui va a spese due parole sul regista, anche Monicelli, che crea questo contesto per raccontare la storia di Valerio Junior Borghese, golpe fallimentare, ridicolo, grottesco, appunto, crea questa atmosfera alla Alan Ford in cui... Sì, con le guardie forestali del Reatino che partirono alla volta di Roma e furono intercettate subito. Sì, beh, uno strepitoso Giancarlo Fusco che fa un colonnello sardo che alla fine arrivano alla RAI e si stanno chiudendo le trasmissioni, quindi non possono fare nessun comunicato, e spara al televisore per un accesso di paranoia isterica. È un film straordinario in cui Tognazzi fa questo splendido colonnello nero toscano straordinario. Chi sei? Chi sono? Ma come, non mi riconosci? Artemio, no. Guarnacci, bello, come stai? È un mucchio di tempo che non ci vediamo, ma sai, nel nostro mestiere ci si vede no. Non ci si vede. Ma io sono stato in America, ho organizzato, insomma... Bravo, fa piacere, bravo. Ecco, Sansonna, proprio in chiusura, ce l'abbiamo come sottofondo, poi partirà la sigla. Questo è il momento terrificante, già evocato forse da un ascoltatore. Esattamente quello che ha evocato l'ascoltatore, e i mostri di Risi, la nobile arte sul pugilato, e con Gassman che sembra Miles Gloriosus, Bobo Vieri, Alberto Tom, Roboante, pugile ormai dismesso, che Guarnacci, Tognazzi meschinamente va a ritirare fuori per ottenere la borsa, insomma, quindi due fuori dalla vita che finiranno in maniera tragica e sublime. Questo è un duetto strepitoso fra due fisici anche opposti, la stentorea fisicità di Gassman e quella un po' più meschina in questo caso di Tognazzi, sublime. Quindi forse il rischio dell'adesione al personaggio tognazzesco rispetto al garrulo divertente macchiettista Sordi è proprio quello di entrare in un vortice senza uscita, che è quello della commiserazione e della commensurazione della propria decadenza. Grazie Sansonna, grazie a Valerio Rocchetti e Fabrizio Intonti, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.